giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Locri, Calabria. Omicidio al seggio. Sono andato all'andamento da anche l'aria che noi respiriamo, e spiego. E loro hanno in mano la maggior parte degli esercizi più grossi commerciali. Al loro conto ci sono dei prestanomi. Poi i traffici internazionali di droga hanno portato un'economia, una parte di quel ricavato viene investito sul territorio. Quindi è tutto in mano loro. In Calabria quelli dell'Andrangheta controllano tutto. Lo ripete agli investigatori un collaboratore di giustizia, del quale non possiamo divulgare il nome, che di quella organizzazione ha fatto parte per anni. Esercizi commerciali, appalti, droga, attività legali e illegali. Hanno in mano tutto loro, ripete davanti agli inquirenti uno dei pochi pentiti dell'Andrangheta. Tutto controllano, perché sono il passato, il presente e il futuro. E cosa succede quando qualcuno si ribella? Non accetta regole imposte dai criminali, firma delibere trasparenti. Cosa accade quando le istituzioni compiono il loro dovere? Locri, Calabria, è domenica 16 ottobre. Si vota per le primarie del centro-sinistra. Numerose persone si mettono in fila davanti ai seggi organizzati dall'Unione. Tutto sembra tranquillo. Il vicepresidente della regione Calabria, Francesco Fortunio, 54 anni, esponente della Margherita, esce dalla sua abitazione a Brancaleone. Raggiunge con la sua automobile Palazzo Nieddu del Rio, dove i militanti del centro-sinistra raccolgono i voti in uno dei due seggi del paese. Fortunio sale le scale, esibisce la tessera elettorale, la carta d'identità, firma il programma della coalizione. E poi inserisce la moneta da un euro nel bussolotto, ritira la scheda e si esprime per il suo candidato. Con il giornalista del quotidiano della Calabria, Pino Lombardo, commenta la buona affluenza e le conseguenze della riforma elettorale. Scende le scale, davanti al portone dello stabile, si ferma a parlare con alcuni amici. Due persone, giovane età, aspetto normale, ben vestiti, si avvicinano a Francesco Fortunio. Nessuna parola. Uno di loro, a volto coperto, estrae una pistola e colpisce il politico a distanza ravvicinata. Fortunio si accascia sul marciapiede. A quell'ora il corso è pieno di gente. C'è un fuggi-fuggi generale, alcuni si riparano dentro nei negozi, dietro le macchine. I due amici di Fortunio si scuotono dallo shock e tentano di praticargli un massaggio cardiaco. L'ambulanza del 118 lo trasporta al pronto soccorso. 5 colpi di 9x21, tipo corto, uccidono un primario di ospedale prestato alla politica, un uomo mite, un padre di famiglia. I killer lo avevano seguito dalla sua abitazione fino al seggio. Nei giorni precedenti avevano perlustrato la zona in modo minuzioso, senza tralasciare alcun particolare. Spostamenti, appuntamenti, abitudini, praticamente tutto. L'omicidio era stato deciso la scorsa estate a Polsi, in Aspromonte, dove ogni anno i boss dell'Andrangheta si incontrano alla festa della Madonna della Montagna. E lì, proprio lì, pianificano il loro futuro. Appalti, affari, commerci legali. Dietro all'assassinio ci sarebbe un appalto da 14 milioni per i lavori di ampliamento dell'ospedale di Locri. Lo stesso in cui Francesco Fortunio lavorava come primario. Un luogo però controllato dal clan Cataldo, gruppo criminale in guerra con la famiglia mafiosa dei Corti. E allora, perché compiere un atto clamoroso in un giorno simbolico per la vita politica italiana? Perché uccidere un uomo impegnato nella battaglia di trasparenza e di legalità? Era appena tornato da New York, dove aveva rappresentato la Calabria al Columbus Day del 10 ottobre. Una valigiata di racconti, idee, proposte da rovesciare in testa agli amici e ai colleghi di partito, dell'ospedale di Locri, del sindacato, dell'università di Catanzaro. Piccolo, di corporatura robusta, lo sguardo mite, due baffi bianchi che erano il suo orgoglio. Francesco Fortunio era per tutti soltanto Franco, A 54 anni non ci pensava nemmeno a rallentare il ritmo frenetico di una vita ai mille all'ora. Fuori casa, all'alba, giusto un saluto alla moglie e ai due figli. Il lavoro di primario in chirurgia, sempre in prima fila come medico e come sindacalista. Infaticabile, che si trattasse di lottare per la vita dei suoi pazienti o che fosse in ballo la sopravvivenza dell'ospedale di Locri, Franco lo sentiva un po' suo, una delle tante strutture sanitarie che in Italia si aprono per dimenticarle il giorno dopo, facendone altrettante trincee di servizi mancati e vite professionali impossibili. Molta della sua attività in consiglio regionale era concentrata sulle condizioni dell'ospedale, sull'immobilismo che può paralizzare anche le volontà migliori. Sono battaglie antimafia anche queste, solo si vedono meno. Francesco Fortunio era il braccio destro di Agazio Lodiero, presidente della regione Calabria. Ciò che probabilmente sta dietro all'omicidio, Lodiero lo rivela a Raffaella Calandra. È un omicidio intanto con connotazioni ben definite, perché sa, uno che entra in pieno giorno, dove si vota per le primarie, uno resta fuori che lo aspetta, incappucciato, spara davanti a tante persone, poi si dilegua, non è certo una ragazzata, è qualcosa che ha una connotazione mafiosa ben precisa. Poi, insomma, sa, questa è una persona mite, buona, un medico, un cattolico, molto disponibile con tutti, non riusciamo a renderci conto come si sia arrivati a così alto livello in Calabria, non è possibile una cosa di questo genere, non vogliamo gettare la spugna, c'è un desiderio di reagire, non possiamo rassegnarci a questa condizione. Un omicidio politico di stampo mafioso commesso da un'organizzazione che nel corso degli anni addirittura ha quadruplicato la potenza e gli affari, come ricorda Vincenzo Macri, magistrato antimafia di Reggio Calabria. Sono 20 anni che l'Andrangheta non fa altro che salti di qualità e non vedo quali altri salti debba fare ancora prima di essere considerata dall'opinione pubblica per quello che effettivamente è da tempo. Cioè un fenomeno di criminalità organizzata forse il più potente, il più diffuso e il più ricco del mondo. E l'episodio restituisce in qualche modo la naturale evoluzione di una catena di attentati intimidatori nei confronti di amministratori pubblici, se ne contano oltre 300 negli ultimi due anni, che non potevano non avere come conclusione un omicidio. Già qualche anno fa c'era stato il tentato omicidio di un assessore regionale, siamo all'omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale. Tutto si muove quindi non in una logica di evoluzione, come dire, di una discontinuità, ma di una continuità preoccupante, prevedibile, che ci conferma nella diagnosi che le dicevo prima. Quindi secondo lei c'è stata una sottovalutazione dei fatti ultimi, precedenti, ecco l'omicidio? Ma guardi, ripeto, questo nell'opinione pubblica purtroppo è avvenuto, questa sottovalutazione, considerare la 'Ndrangheta come un fenomeno di serie B. A livello di magistrati e investigatori ormai da tempo questa sottovalutazione non c'è più, e tuttavia è probabile che ci sia stata più che una sottovalutazione, la difficoltà di considerare tutti questi episodi di cui le ho parlato in una visione organica, unitaria, sono stati tutti considerati in maniera frazionata, in maniera singola e non si è percepito il quadro di assieme che essi delineavano, cioè il quadro di una aggressione alla vita pubblica regionale, un tentativo cioè dell''Ndrangheta di impadronirsi dopo delle leve economiche anche delle leve politiche della regione. È inutile cercare un perché, non c'è mai stato niente di spiegabile. E Locri in Calabria vuole dire 'Ndrangheta, un esercito potente, efficiente e ben strutturato sul territorio, come ricorda Giampaolo Ganzer, comandante del ROS dei Carabinieri. 5.000 affiliati in Calabria e probabilmente altrettanti sparsi sul territorio nazionale dall'estero, dall'Australia al Canada, al Venezuela, alla stessa Colombia, alla Spagna, ad altri paesi europei. Chi sono mafie che contro lo Stato trasformano la loro azione? organizzano traffici e movimentano ingenti quantitativi di denaro attraverso affari illeciti, società guidate da prestanomi. Ci sono mafie che mettono paura perché affermano sul territorio un controllo totalitario. L'Ndrangheta è una di quelle. Enzo Ciconte, storico della mafia. L'Ndrangheta assume due ruoli sociali fondamentali. Un primo ruolo è quello di difesa della povera gente. Paradossalmente riusciva a dare risposte che lo Stato non riusciva a dare. Questo sistema, questo meccanismo, l'Ndrangheta continuerà ad averlo anche per un lungo tempo. Dall'altra parte ha una funzione di mediazione dei conflitti, conflitti difficilmente risolvibili. Pensiamo per esempio ai conflitti d'onore. Io ho notato come in quegli anni l'Ndrangheta, rispetto per esempio ad un giovanotto che insidiava una ragazza, quella ragazza non lo voleva, i genitori di quella ragazza non volevano quel matrimonio, quel padre di quella ragazza si rivolgeva al carabiniere dell'epoca e il carabiniere cosa poteva fare nei confronti di quel giovane? Ma se quel genitore si rivolgeva ad un ndranghetista e l'ndranghetista chiamava il giovane, quella ragazza non aveva più guardato. Era una funzione di protezione dell'onore delle ragazze. In realtà, parliamoci chiaro, era un sistema di controllo della società. Però non c'è dubbio che questo svolgeva una funzione importante. Un'organizzazione criminale radicata nel tessuto sociale calabrese che ha esteso anno dopo anno la propria influenza a livello nazionale. Le cosche si chiamano ndrine. La provenienza parentale favorisce omertà, coesione interna, autonomia nelle rispettive aree di influenza. Oggi l'Ndrangheta assume un modello strutturale di tipo verticistico federativo. E cosa vuole dire? Vuole dire che le cosche sono autonome, ma restano unite al vertice da un patto di sangue, fondato sugli interessi economici. Estorsioni, infiltrazioni negli appalti pubblici, traffico di armi e stupefacenti. L'attività repressiva ha segnato risultati di eccezionale importanza, che hanno consentito di comprendere il fenomeno dell'Ndrangheta dall'interno. Non solo con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma anche con un paziente lavoro di intelligence. Si è giunti a definire le aree di interesse delle singole ndrine e il loro collegamento che si è progressivamente strutturato in un nuovo vertice. Si è costituita la cosiddetta commissione a livello provinciale, che intende contrastare omicidi e conflitti tra le cosche. È accaduto dopo che l'organizzazione criminale ha abbandonato i sequestri di persona per entrare nel traffico degli stupefacenti e nella gestione degli appalti pubblici. Giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Locri, Calabria. Omicidio al seggio. C'è un vertice, una cupola, composta da una federazione di cosche, di ndrine. Reggio Calabria è il centro principale, ma le cosche dell'Ndrangheta non sono solo concentrate nel capoluogo di regione. A Reggio Calabria sono presenti i capi cosca più influenti, legati ad altre organizzazioni mafiose nazionali. Ogni ricambio generazionale o conflitto di potere apre un fronte cruento nel capoluogo e gli esiti incombono sul resto della regione. Sulla costa ionica della provincia emergono importanti figure criminali nei comuni di San Luca, Platì e Natile di Careri, storicamente implicate nei sequestri di persona. Le famiglie dei Commisso e dei Costa di Siderno, degli Iamonte di Melito Porto Salvo, degli Ursino Macrì e Aquino Mazzaferro, in auge nei comuni di Gioiosa Ionica e Marina di Gioiosa Ionica. Sulla costa tirrenica l'attività di contrasto ha consentito di individuare e reprimere i pericolosi sodalizi dei Mammoliti Rugolo di Oppido Mamertina, i Gioffre Santaiti e infine i Piromalli Molè. Nicola Gratteri, sostituto antimafia di Reggio Calabria, entra ancor più nei segreti della struttura organizzativa dell'Ndrangheta. C'è il capo locale, che è colui il quale ha potere di vita e di morte su tutti, il contabile, che è il ministro dell'economia, è colui il quale paga gli avvocati, colui il quale pensa ai familiari dei detenuti, colui il quale amministra comunque i soldi, i proventi delle attività illecite. Poi abbiamo il crimine, che è il ministro della guerra, il ministro della difesa. che naturalmente organizza gli omicidi, le modalità degli omicidi e la difesa del locale quando questo viene attaccato. Prima di entrare nell'andrangheta si è contrasti onorati. Essere contrasto onorato quindi non è un soggetto affiliato all'andrangheta, potremmo dire un favoreggiatore, è un soggetto che viene studiato anche un anno o due anni da altri affiliati per capire, per stabilire se lo stesso può entrare a far parte del locale di andrangheta. Gli affari partono dalla Calabria ma poi si estendono in modo lento e inesorabile in Lombardia, Piemonte, Liguria e poi in Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria. Distaccamenti, basi operative che inquinano territori più sviluppati sul piano economico e sociale, trasferendo il sistema criminale e mafioso. Uno schema che gli investigatori conoscono ormai da tempo. Il generale Giampaolo Ganzer, comandante della Rosta dei Carabinieri, lo racconta a Raffaella Calandra. Risale agli anni 60 che inizia la sua attività con il contrabbando del bergamotto, poi dei tabacchi lavorati esteri, i sequestri di persona che hanno fornito i capitali iniziali per passare poi al grande business del narcotraffico su scala nazionale ed internazionale, dove attraverso le ramificazioni delle famiglie che si erano stabilite in altri paesi sono state create delle joint venture con i produttori di narcotici. E nello stesso tempo la presenza di componenti strutturate ha la possibilità di controllare tutti i segmenti in cui si articola il narcotraffico. Nelle più recenti indagini, cito ad esempio la De Collo, abbiamo visto che la stessa organizzazione distribuiva le tonnellate di stupefacenti verso l'Australia, verso la Spagna, oltre che in tutta l'Italia, la cocaina. È il narcotico su cui l'andrangheta ha un monopolio in Italia. Ci sono dei cartelli costituiti a volte anche da gruppi di altre mafie come Cosa Nostra e la Camorra che compartecipano all'acquisizione del narcotico. Il traffico di stupefacenti nel territorio nazionale è controllato dall'andrangheta. Comprano la droga dai clan dei narcotrafficanti del Sud America e Medio Oriente. Poi ci sono i rapporti con Cosa Nostra siciliana che sono strettissimi. E alla fine ci sono gli appalti, quelli in Calabria e quelli del nord del paese. E questa è la nuova frontiera del business economico dell'andrangheta. E vi è più di una traccia nelle indagini degli investigatori, come Giampaolo Ganzer. È una presenza che non si esprime con gli stessi criteri di controllo territoriale totalizzante, molto spesso anzi proprio per evitare una visibilità eccessiva l'andrangheta cerca di infiltrarsi negli affari redditizi ricorrendo solo in casi eccezionali all'intimidazione, alla violenza plateale. Ci sono tante indagini che vedono anche un'andrangheta imprenditrice che con proprie imprese condizione di appalti, si aggiudica delle attività che comunque risulta un condizionamento inquinante per l'economia sana. Ma qualcosa ha iniziato a scricchiolare. Il lavoro di intelligence ha inflitto nei mesi un duro colpo all'organizzazione con gli arresti di Morabito e De Stefano. Quella degli investigatori è stata una caccia senza esclusioni di colpi. L'ha ricostruita per noi Filippo Veltri. La caccia a Giuseppe Morabito, il latitante numero uno dell'andrangheta calabrese, è durata anni ed anni, negli anfratti più remoti dell'Aspromonte e nelle periferie delle città. Il tiradritto, così come lo chiamavano i suoi uomini, si nascondeva alle porte di Reggio Calabria, insieme al genero, un medico dell'ospedale di Melito Porto Salvo. Per 10 anni è sfuggito a carabinieri e polizia, cambiando covi e rifugi, protetto da una rete di affiliati, a volte anche insospettabili, tra questi un altro medico arrestato dalla polizia, muovendosi come un capo di Stato tra le strade della sua Locride, la sua auto in mezzo ed altre due che lo proteggevano, sia allo Stato ma anche ai nemici. Un vecchio capobastone di un'andrangheta che cambiava e che vedeva in Orazio De Stefano, l'altro superlatitante, forse uno dei veri capi in ascesa. La caccia a De Stefano è finita addirittura in un bell'appartamento nel centro di Reggio Calabria, in un condominio di lusso dove tra salumi e provole appese ai muri il latitante erede della più famigerata cosca cittadina continuava a gestire gli affari miliardari, almeno finché le forze dell'ordine non lo hanno arrestato. prima del suo arresto, il boss dei boss dell'Andrangheta era dunque Salvatore Morabito. Per troppi anni latitante nel suo stesso territorio. Era lui dunque l'uomo al vertice delle cosche calabresi, come spiega Giampaolo Ganza. Tratta di un personaggio di assoluto rilievo perché, continuando a condurre la sua latitanza, manteneva un clima di intimidazione generalizzato. Poi si trattava di un soggetto che aveva acquisito nel tempo, oltre che un enorme prestigio criminale, un prestigio più ampio che gli consentiva di porsi quale elemento di vertice assoluto tra le varie cosche, nello sviluppare sostanzialmente una specie di giustizia parallela. E oggi, dopo l'arresto di Salvatore Morabito, chi comanda nell'Andrangheta? Oggi ci sono 112 cosche attive in Calabria, un affiliato alle 'ndrine ogni 345 abitanti, 35 miliardi di euro il volume d'affari dell'economia criminale nella regione, 30 consigli comunali sciolti dal 1995 al 2005, 24 i morti nella Locride dal settembre 2004 al 16 ottobre 2005. L'ultima relazione della divisione antimafia conferma: è la 'Ndrangheta l'organizzazione criminale più compatta e meno visibile sul territorio. Sempre pericolosa e pervasiva, in evidenza per determinazione, ricchezza, potenza. Investigatori lo scrivono nero su bianco. La 'Ndrangheta continua a mantenere la leadership del crimine anche grazie alla capacità di sapersi adeguare ai cambiamenti, riuscendo a cogliere i momenti favorevoli ed utilizzando gli strumenti delle innovazioni tecnologiche a loro disposizione. Chi vive nei territori delle 'Ndrine si trova davanti ad un bivio: lasciare il paese oppure ribellarsi, come ci ricorda il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Si è colpita contemporaneamente un'istituzione democratica, il Consiglio regionale, che rappresenta tutta la Calabria, e la sua volontà di riscatto. Per questo, come Capo dello Stato, ho voluto rendere omaggio al professor Fortugno in questa sede istituzionale. E lo hanno capito bene quei giovani che hanno sfilato in un maturo e consapevole silenzio davanti all'omertà. 3.000 ragazzi oggi chiedono che lo Stato faccia la sua parte, e con loro ci sono imprenditori, commercianti, amministratori pubblici, cittadini. Un paese normale, come vorremmo che fosse. Oggi, subito. Perché domani? Domani potrebbe essere fin troppo tardi.